Siamo in compagnia di Sabrina Baracetti, direttrice della 20ª edizione del Far East Film Festival a Udine dal 20 al 28 aprile, per parlare con lei anche dell'uscita in sala del film Il prigioniero coreano di Kim Ki-duk, in uscita in sala il 12 aprile prossimo. Sabrina, ben ritrovata e benvenuta. Un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Sì, siamo felicissimi appunto di essere, come Tucker Film, i distributori di questo grande ritorno di Kim Ki-duk alla narrazione politica, possiamo dire. Cioè un Kim Ki-duk che abbiamo visto e abbiamo apprezzato e amato, di cui ci eravamo innamorati appunto all'inizio della sua carriera e che poi lentamente abbiamo perso, forse perché appunto certi film, diciamo, forse erano anche troppo estremi anche per noi. Ora, noi questo film, come Tucker Film, l'abbiamo visto l'anno scorso in una proiezione di mercato e ce ne siamo subito innamorati. Poi il film ha fatto un passaggio al Festival di Cinema di Venezia, al Festival di Cinema di Toronto e ha cominciato ad avere i suoi estimatori. Quindi molti come noi si sono accorti di questa capacità che ha avuto Kim Ki-duk di raccontare ancora una volta cosa sta succedendo in uno del, anzi forse l'unico paese diviso al mondo e quanto sia difficile per un coreano del sud accettare questa situazione. Chiaramente sappiamo che Kim Ki-duk non è una persona semplice, quindi la sua posizione non è certamente così ottimista sul discorso della riunificazione. Infatti un po' il film racconta anche questo, cioè racconta anche una sorta di disillusione e di un'aspettativa che non è stata in qualche modo garantita dalla storia con la S maiuscola fino ad ora. Però in fondo quello di cui ci siamo innamorati guardandolo è questo film, che si chiama appunto Il prigioniero coreano, alla fine porta con sé una speranza che è anche inaspettata, ha una struttura narrativamente molto binaria e in qualche modo non assolve nessuno, né la Corea del Sud né la Corea del Nord, perché sappiamo racconta la storia di un uomo qualunque, di un pescatore della Corea del Nord che per caso si lascia, cioè la sua barca per caso va alla deriva e quindi inaspettatamente varca quel confine fatidico sul 36esimo parallelo e si ritrova in un mondo completamente diverso. Viene prima considerato appunto una spia, ma allo stesso tempo anche vede un mondo completamente diverso e forse non vuole neanche vederlo, perché lui in qualche modo è molto più onesto con se stesso nel condurre una vita come quella che conduce con la sua famiglia, con sua moglie, con sua figlia nella Corea del Nord, e a questo vuole tornare, non lasciarsi appunto abbagliare da certi neon del capitalismo. Quindi insomma è un film molto politico, però è anche un film che usa una estetica di genere, perché è un thriller assolutamente avvincente, come abbiamo cercato di raccontarlo. Come abbiamo cercato di raccontare attraverso il trailer del film, che spero abbiate visto, perché abbiamo cercato di spingere il più possibile sui social e anche nelle sale italiane. Comunque, da domani siamo in 23 sale in tutta Italia, Il prigioniero coreano, il grande ritorno di Kim Ki-duk, con il marchio Tucker Film. Cosa ti ha convinto del film? Una delle cose che ci ha convinto tantissimo del film di Kim Ki-duk è sicuramente l'interpretazione di Ryu Seung-bom, questo attore che abbiamo visto in decine di altri film, praticamente alcuni di questi molto più incentrati su un'idea di thriller, come ad esempio The Berlin File, diretto dal suo fratello Ryu Seung-hwan. Però diciamo che Ryu Seung-bum, appunto l'attore protagonista assoluto del prigioniero coreano, ha qui un modo di raccontare un viso, un'emozione che in qualche modo si inventa, perché ovviamente lui, essendo coreano del sud, non ha mai avuto l'opportunità, se non in pochissimi casi all'estero, di incontrare dei coreani del nord, no? E quindi diciamo che lui è assolutamente convincente Sì. e la sua interpretazione è in certi momenti toccante e commovente. Sì. Sabrina, che reazioni ha suscitato in patria? In patria il film è uscito Sì. e ha avuto comunque delle recensioni positive. Ovviamente Kim Ki-duk in patria è un autore anche molto controverso, per cui ovviamente ha degli estimatori e anche coloro che invece non sono così vicini al suo cinema. In passato Kim Ki-duk ha anche realizzato dei film che non erano pensati proprio per il pubblico nazionale, forse più per i festival internazionali di cinema. Però Però questo film, come ho detto prima, proprio perché racconta questa situazione del paese diviso, comunque ha avuto degli estimatori in patria. Sì. E oltretutto è stato venduto in tantissimi paesi del mondo, per cui noi ci aspettiamo che anche il pubblico italiano comprenda e possa apprezzare, insomma, questo, come ho detto prima, il grande ritorno di Kinky Duke. Sabrina, ci racconti anche un po' dell'esperienza Tucker? La Tucker Film è una società di distribuzione che ha sede lontano da Roma, diciamo, quindi anche questa è una sua particolarità, quindi ha sede in Friuli, Venezia Giulia, e in qualche modo molto legata anche a questo territorio, perché nella sua storia sono passati oramai 10 anni da quando abbiamo fondato questa casa di distribuzione assieme ai nostri colleghi di Cinema Zero di Pordenone, e l'attacco era sempre avuto una doppia anima, una rivolta al territorio, infatti volevo ricordare uno fra tutti, perché è stato anche il motivo per cui Tucker Film si è costituita come società di distribuzione, è Rumore Bianco di Alberto Fasulo. Sì. E l'altra è l'anima asiatica, legata anche e soprattutto al Far East Film Festival, quindi al fatto che proprio a Udine ci fosse una manifestazione di questo tipo che apriva le porte sull'Oriente e che ci aveva permesso alle origini, proprio quando abbiamo fondato Tucker Film, di distribuire un film al quale saremo per sempre legati, che è Departures, il film che poi ha vinto, cioè che aveva già vinto l'Oscar come migliore film straniero e che è stato un po' il nostro primo titolo sul quale abbiamo proprio impostato un lavoro di distribuzione in Italia, e quindi abbiamo cominciato a lavorare con tutte le sale italiane per le uscite anche successive. Passiamo ora alla 20ª edizione del Far East Film Festival a Udine dal 20 al 28 aprile. Ce ne parli un po', Sabrina? Udine Far East Film Festival è giunto alla sua 20ª edizione. È un'edizione di grandi numeri, prima di tutto. Quindi già i numeri che andrò a citare raccontano un po' quello che succederà qui dal prossimo venerdì all'interno del Teatro Nuovo Giovanni Udine, che ci ospita ogni anno. Saranno 81 titoli a comporre il cartellone, da 11 cinematografie dell'Estremo Oriente. 55 di questi sono film in concorso con il premio del pubblico, 6 prime mondiali, 3 World Festival Premiere, 12 anteprime internazionali, 22 anteprime europee. In sostanza, 43 degli 81 film selezionati al festival quest'anno sono in assoluta prima europea. Dico questo perché appunto l'idea nostra non era quella di celebrare il festival, però i numeri, perché se aggiungo 76 star che arrivano dall'Oriente, 36 presentazioni sul palco, 150 professionisti che raggiungeranno Udine per la sezione industry che si chiama Focus Asia, e più di 1000 crediti fino ad oggi appunto assegnati a un pubblico che arriverà qui a Udine, diciamo che proprio questi numeri non fanno altro che pensare che un'idea di celebrazione ci sia, insomma, al di là è nostro malgrado, e forse questo è un effetto 20 anni, perché veramente quando abbiamo selezionato questi 81 titoli non ci aspettavamo di avere questa risposta, nel senso che tutti gli asiatici, i registi prima di tutto, gli attori, i produttori vogliono venire a Udine, che ci fa molto piacere, e allo stesso tempo anche crea tantissime aspettative sul festival. Una cosa importante che abbiamo anche detto oggi in conferenza stampa è che 21 di questi titoli sono opere prime e seconde, quindi sono dei numeri straordinari, e parliamo veramente di una folta schiera di autori che arriveranno a Udine, che saranno appunto gli autori anche del futuro e del domani. Quindi proprio per questo, una novità di quest'anno che prima non era mai accaduta, è che oltre al premio del pubblico, che era un po', insomma, la vocazione popolare del festival, che sul quale il festival poi è cresciuto, cioè la possibilità data al pubblico di votare il proprio film preferito, abbiamo aggiunto quest'anno, proprio perché siamo di fronte a tantissime opere prime e seconde, una giuria di 3 persone, un professionista che arriva dall'Asia, un professionista che arriva dall'Italia, in questo caso comunque per noi dall'Europa, e un professionista degli Stati Uniti, che saranno appunto i giurati che assegneranno un nuovo premio che abbiamo creato quest'anno, che si chiama il Gelso Bianco. I tre professionisti che compongono la giuria sono appunto Albert Lee da Hong Kong, che è stato colui che lavorando alla Golden Harvest ha creato e ha studiato anche a tavolino il personaggio di Jackie Chan, il suo lancio anche negli Stati Uniti, e poi chiaramente è un grandissimo produttore che lavora tra Hong Kong e la Cina. Abbiamo Peter Lorre, che ha iniziato la sua carriera, un americano che ha iniziato la sua carriera 20 anni fa a Pechino producendo film cinesi indipendenti, e poi è passato, e sembra proprio un ossimoro, invece alla Legendary Picture, cioè una casa di produzione americana con la quale ha prodotto The Great Wall di Zhang Yimou con Matt Damon, per fare semplicemente appunto dei riferimenti molto precisi, e quindi anche lui è un grandissimo professionista e siamo onorati che sia con noi. E infine Massimo Gaudioso, che conosciamo tutti, che è sceneggiatore appunto amatissimo in Italia, anche perché ha firmato i film che abbiamo amato di più di Matteo Garrone. Quindi saranno tre persone, una giuria che è una novità assoluta per fare il film. Sabrina, un bilancio anche di questo ventennale? Un bilancio del Faris Film è che il Faris Film è diventato non soltanto una vetrina degli ultimi prodotti e quindi le anteprime mondiali anche internazionali dei film dell'Estremo Oriente che appartengono ad una dimensione di genere, ad un'estetica di genere, ma è anche diventata una piattaforma di business perché appunto 3 anni fa abbiamo voluto pensare a un progetto che avrebbe nelle nostre intenzioni, insomma, maturare con gli anni. Cioè abbiamo cominciato a capire che un festival non ha più tanto senso se non ha anche un proprio mercato dove poter far incontrare dei professionisti che sia discutono dei progetti dei film del futuro, quindi non soltanto appunto una piattaforma di film finiti, ma anche una piattaforma di film e un concorso di film che sono ancora in una fase progettuale, cosa che abbiamo creato con Focus Asia, che è appunto la nostra sezione Indosy. E quindi dicevo, oltre che una vetrina, cioè quindi oltre che una selezione, che ovviamente la selezione è molto importante, no? Sempre di più in questa epoca in cui tu puoi vedere tutto e su qualsiasi formato e in ogni momento della tua vita, quindi la selezione è molto importante, ma allo stesso tempo anche il lato più industry, più da business, perché stiamo aspettando appunto qui a Udine più di 150 professionisti che verranno a discutere progetti e a comprare e a vendere film. In chiusura, Sabrina, ci lasci tutti i riferimenti web per il programma? Dunque, Faris è facilmente seguibile in ogni sua fase sulla sua pagina Facebook e oltretutto sul sito www.farisfilm.com. Perfetto. Allora, un saluto e un ringraziamento a Sabrina Baracetti, direttrice della 20ª edizione del Far East Film Festival a Udine dal 20 al 28 aprile. Sabrina, un abbraccio, a risentirci presto. Ci sentiamo prestissimo, grazie a te.